papà mi portava a giocare, mi diceva Marietta vien grande, mi diceva Marietta vien grande. Quando ero piccina piccina, mio papà mi portava a giocare, mi diceva Marietta vien grande, che ti voglio maritare. Bionda, bella bionda, oh biondinella d'amore. Bionda, bella bionda, oh biondinella d'amore. Grandicella io son divenuta, all'età di 16 anni, ho una figlia che chiama già mamma, ho una figlia che chiama già mamma. Grandicella io son divenuta, all'età di 16 anni, ho una figlia che chiama già mamma,